603, focaccia alla tedesca. Zucchero grammi 120, candito pezzettini grammi 30, pangrattato fine grammi 120, uva sultanina grammi 30, uova numero 4, odore di scorza di limone. Lavorate prima i rossi d'uovo con lo zucchero finché siano divenuti quasi bianchi. Aggiungete il pangrattato, poi il candito e l'uva, e per ultimo le chiare, montate ben sode. Mescolate ad agio per non smontarle. E quando il composto sarà tutto unito, versatelo in una teglia imburrata e infarinatela, o spolverizzata di pangrattato, ove alzi due dita circa, e cuocetela al forno. Questo dolce prenderà l'apparenza del pan di Spagna, che spolverizzerete, dopo cotto, di zucchero a velo. Se dovesse servire per 10 o 12 persone, raddoppiate la dose.